vano che pensi. Perdesti a Stella e perderai la vita. Si fa da Bajazet, qualche speranza par che mi resti ancor nei sdegni suoi. Ma se l'altero poi non ho polli lassù, nulla più spero. Ne scorgo amica Stella che mi assicuri.